Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi che tratteremo in questa puntata, di nuovo minacce e botte risposte tra Europa e Stati Uniti, il tema sono di nuovo i dazi. Devo fare una premessa, scusatemi, stiamo ancora attendendo l'annuncio di Luigi Di Maio, che stante tutte le anticipazioni e discrezioni dovrebbe comunicare un passo indietro, un passo a lato come guida politica dei 5 Stelle. Lo dico perché faremo ascoltare l'intervento del ministro Di Maio appena sarà in diretta, almeno per avere, insomma, nella parte, se riusciamo a intercettarla, in cui c'è la notizia, non il preambolo, ma di solito la notizia. Tornando invece ai temi di questa puntata, di questa giornata, torneremo su Davos e sul botta e risposta tra Stati Uniti e Europa e anche Francia, perché oggi il ministro dell'economia Le Maire ha detto: guardate che il voto sulla web tax, il tema è la tassazione dei colossi del web che pagano le tasse dove più gli conviene, non dove fanno i ricavi, Le Maire ha detto: guardate che è un voto del Parlamento francese e noi andiamo avanti su questo, o c'è un accordo complessivo dentro l'Ocse anche sulla web taxation oppure sarà guerra commerciale. E Le Maire è d'accordo anche con il ministro italiano Gualtieri: l'Italia ha già introdotto una web tax, dovrebbe portare più o meno 700 milioni di euro nelle casse dello Stato. Però Mnuchin, il segretario del Tesoro americano Steven Mnuchin, ha detto: una digital tax è discriminatoria per sua natura, ma se si vuole imporre una tassa sulle nostre società considereremo tasse sulle case automobilistiche. Poi sempre Mnuchin ha detto da Davos: nessuna scadenza sulla fase 2 dell'accordo con la Cina. Trump ha riminacciato l'Unione Europea, ha detto: se non accettano un accordo commerciale gli Stati Uniti sono pronti a imporre dazi dolorosi sulle importazioni dell'Unione Europea. E ne parleremo anche con chi rappresenta il settore agroalimentare in questo paese, il presidente di Confagricoltura Gian Santi, che ha chiesto in qualche modo di arrivare a una sospensione e di non arrivare allo scontro con gli Stati Uniti, di sospendere l'applicazione della tassazione sulle imprese digitali affinché poi venga discussa all'interno dell'Ocse, perché il timore è grosso anche sui nostri prodotti dell'agricoltura, cioè sia soprattutto la parte alimentare, quindi trasformata. E ne parleremo anche perché apre i battenti la fiera di Verona, la fiera agricola, la 114esima edizione della fiera agricola, che è il più importante appuntamento per il mondo dell'agricoltura in Italia. Poi, come sempre, i mercati finanziari: meno 0,60% Milano, meno 0,30% Francoforte, meno 0,60% Parigi, Dow Jones invariato, Londra meno 0,50%, tra i titoli va bene Moncler più 2,5%, Amplifon più 2,40%, Azimut più 2,40% anch'essa, Atlantia più 1,90%, Era più 1,30% come Nexi, Fineco più 1,20%, come Ferrari. Tra l'altro Ferrari oggi ha rivinto, diciamo così, il premio come marchio più prestigioso, e per il secondo anno è il marchio più forte al mondo. È stato presentato, se non ho visto male, proprio a Davos durante il World Economic Forum, il rapporto Brand Finance Global 500, cioè i 500 marchi più importanti al mondo. E per il secondo anno consecutivo, appunto, il marchio più forte al mondo per questa società è la Ferrari, con 94,1 punti su 100. Vuol dire il valore del marchio, la forza del marchio stesso, al di là del prodotto. Il valore viene calcolato in 9 miliardi di dollari, in crescita del 9%, e che non è solo il fatturato. Attenzione, il marchio va oltre. Quando si fanno queste classifiche si dice: se tu dovessi comprare quel marchio, al di là delle auto che produci, che altro valore genereresti? Comunque, dicevo, Ferrari bene oggi, non so anche se per questo motivo. Negativo in borsa invece Saipem meno 3,90, Unicredit meno 3,20, Biper meno 2,70, deboli oggi tutte le banche, Banco BPM meno 2,60, UBI meno 2,35%, preoccupano di nuovo le tensioni tra Stati Uniti e Europa in questo caso, e quindi l'ipotesi di dazi. Ancora lo spread è leggermente aumentato a 170 punti, è andato stamattina, poi è disceso dopo l'annuncio che Di Maio, la sostanziale conferma che Di Maio avrebbe annunciato le sue dimissioni, adesso vediamo esattamente cosa saranno, comunque un passo indietro, un passo a lato come responsabile politico dei 5 Stelle, poi lo spread è ritornato verso quota 160. Su Saipem dico che pesa il taglio sul voto operato dalla Bank of America. Infine chiuderemo su un tema che a noi sta molto a cuore, la formazione e l'incrocio tra domanda di lavoro e offerta formativa. È il mese di gennaio, lo diciamo da inizio gennaio, da quando siamo tornati in diretta, fu prima il rapporto radio24scuola.net sulle scelte, l'orientamento delle famiglie, soprattutto perché quando un ragazzo ha 14 anni, insomma, di solito è la famiglia che spesso dà la decisione finale, ascoltando spero anche le inclinazioni del ragazzo e non ragionando solo in chiave sociologica, come dico sempre, cioè fa figo andare al liceo, non fa figo andare all'istituto, guardate i tassi di occupazione, ne parleremo. Gli ITS hanno tassi di occupazione del 90, 85-90% dopo il diploma. Guardate le inclinazioni di vostro figlio, se ama la matematica e il latino, la matematica che vada allo scientifico, se ama il latino e il greco che vada al classico, ma se lo fate solo per mettervi una medaglietta state magari mettendo un'ipoteca sul suo futuro professionale. Ne parleremo, è uscito il rapporto anche quest'anno durante la 26esima giornata nazionale di Orienta Giovani, il rapporto su quanto quante figure professionali saranno richieste solo dalla manifattura. Sono circa 430.000 se mette assieme anche i servizi, ma nei prossimi due anni è arrivato oggi la conferma che il mondo della manifattura avrà bisogno di 220.000 persone in alcune categorie ben specifiche, e poi ne parleremo. Uno su due è difficile da trovare, un ragazzo formato sotto i 29 anni su due è difficile da trovare, lo dicono le imprese. In alcuni settori, penso al tessile e al legno arredo, si arriva all'80% di difficoltà di reperire delle figure. Ne cito una: i modellisti nel settore tessile sono praticamente introvabili in questo paese, così come gli operai specializzati, i designer nel settore legno, così come i diplomati anche nel settore, e i laureati anche nel settore della chimica, della farmaceutica e via così. Solo l'information communication technology avrà 40.000 posti di lavoro da cercare nei prossimi due anni, 67.000 saranno cercati nella meccanica, soprattutto con elevata specializzazione, 16.000 nel settore dei prodotti in gomma e plastica. Comunque ne parliamo dopo, nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Qualcuno vuole che io parli a tutti i costi delle elezioni in Emilia Romagna di Salvini a Bologna del Campania. Guardate, le elezioni in Emilia Romagna andranno come andranno. Anticipo che faremo la diretta dalle 23 alle 24 di domenica e poi dirette dalle 5.30 in poi per conoscere Emilia Romagna e Calabria, perché non si vota solo in Emilia Romagna. Vedremo, adesso daremo anche, vediamo se quando parlerà Di Maio. A me di Salvini ne hanno già parlato altri programmi, ed è che va a suonare il campanello al tunisino, cioè una protesta ufficiale della Tunisia. Posso accogliere la battuta che mi fanno alcuni, allora visto che ci sono anche in Calabria, vai a suonare i campanelli in Calabria dove c'è l'Andrangheta. Temo che sia un po' più difficile andare a suonare i campanelli in Calabria e a chiedere, c'è un affiliato alle 'ndrine lì, no, perché anche la Camorra, l'Andrangheta e la mafia sono temi che hanno a che fare con la sicurezza di questo territorio. Lo dico solo perché ci sono le elezioni anche in Calabria, immagino che adesso andrà a suonare i campanelli a Gioia Tauro e vedere che cosa gli rispondono. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sulle notizie in breve. Di Trump parleremo, Trump e le minacce all'Europa, se l'Unione Europea non fa l'accordo le misure saranno dolorose, ne parliamo tra pochissimo. Intanto andiamo su un altro dato, la Tesla è arrivata a valere 100 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, superando la Volkswagen che ha 99,8 miliardi di dollari. Questo oggi è Wall Street, dove ha guadagnato il 4,6%. Sempre sul settore auto, ma sulla fusione Fiat Chrysler, Peugeot, Citroën, Michael Manley, il numero uno di Fiat Chrysler, ha detto che per la fusione ci vorranno dai 12 ai 14 mesi, perché ci sono vari ambiti in cui operiamo, così Manley, mentre un altro gruppo, mi riferisco al colosso tedesco Daimler, ha fatto notare che il richiamo dei veicoli diesel Mercedes-Benz costerà un miliardo e mezzo di euro di costi aggiuntivi per il 2019, probabili spese supplementari per procedimenti amministrativi e giudiziari. Guardi, adesso dico, alcuni ascoltatori che vogliono portarmi nella polemica, non è né benaltrismo né l'altro, su, ognuno, vorrei occuparmi di economia e di cosa dovrebbe fare il governo, cosa non ha fatto il governo, cosa non ha fatto il governo precedente, di chi suona i campanelli. Ho solo detto, se le elezioni, visto che sono anche in Calabria, immagino che così come c'è il problema dello spaccio e c'è al quartiere Pilastro di Bologna, c'è il problema anche della presenza fortissima delle 'ndrine sul territorio calabrese, e immagino che uno vada a solidarizzare anche con i calabresi vittime, soffocati dalla presenza della 'ndrangheta. Su, dai. Andiamo invece all'Italia. Il fatturato industriale di novembre è fermo, pesa il dato sull'estero, cioè che le esportazioni siano in rallentamento. Gli ordini attivi industriali hanno fatto meno 0,3% sul mese, meno 4% sull'anno, meno 4,3%. Gli ordini attivi sono un segnale importante, perché sono un segnale anticipatore. È soprattutto l'industria degli autoveicoli che continua a frenare, e frena quella tedesca, frena anche quella italiana. Fatturato autoveicoli meno 4,7%, ordinativi meno 3,6%, complessivamente il bilancio è negativo per tutta l'industria italiana nei primi 11 mesi del 2019, sia per il fatturato che per gli ordinativi. Questo appunto, manca solo un mese all'appello, però insomma le commesse sono in calo del 2,6% rispetto a un anno prima, e anche gli ordinativi dell'1,9%. Ancora due notizie. Da un lato la notizia che riguarda il mondo dell'editoria: la pirateria sottrae al mondo dei libri 528 milioni di euro l'anno, pari al 23% del valore di mercato. Un italiano su tre ha compiuto almeno un atto di pirateria, il 66% ritiene poco o nulla probabile che gli atti illegali vengano scoperti e puniti. Questa è la ricerca commissionata dall'Associazione Italiana Editori e Ipsos. Invece, per quello che riguarda il MOSE, quindi le paratie, il sistema di paratie e le paratoie, perché sono due cose un po' diverse, paratoie. Per essere precisi, alle bocche di porto di Venezia, allora i commissari del consorzio Venezia Nuova hanno comunicato che il cronoprogramma del MOSE prevede la possibilità di mettere in funzione le paratoie, per la quale chiamano appunto paratoie, dal prossimo 30 giugno in occasione di maree di un certo livello, probabilmente 140 centimetri. Quindi dovrebbe esserci la possibilità di vedere il MOSE in funzionamento il 30 giugno. Io spero di no, nel senso che spero che non arrivino proprio durante l'estate 140 centimetri a Venezia. Staremo a vedere. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Parliamo di Davos, ma non tanto di Davos, ma del rischio di una nuova guerra commerciale. Questa volta, come dicemmo, essendo facili i profeti, chiuso per ora il contenzioso con la Cina, Trump si gira dall'altra parte, dopo l'Oceano Pacifico, si gira verso l'Oceano Atlantico e vuole iniziare a, non dico minacciare, oddio, minacce sì, perché quando dice la Francia che se va avanti con la web tax gli metti 2 miliardi e 4 di dazi, quando dice Gran Bretagna e Italia che se vanno avanti con la web tax subiranno la stessa sorte francese, si chiama una minaccia a casa mia. Il problema è che manca una risposta unitaria dell'Europa, come abbiamo ricordato anche nei giorni scorsi, perché Olanda, Irlanda e altri paesi del nord non sono così sensibili al tema del web tax, te credo. I colossi del web hanno la sede fiscale lì, dove pagano pochissime, se non zero tasse. Il problema è proprio che i ricavi non li fanno in Irlanda o in Olanda, li fanno soprattutto in Francia, in Germania, in Gran Bretagna e in Italia. Allora, Trump, iniziamo a sentirlo in un'intervista alla CNBC rilasciata oggi a Davos, da World Economic Forum. Se l'Unione Europea non accetta un accordo commerciale, non era solo sul digitale in questo caso, era in generale, quindi sulla digital tax, noi imporremmo dazi dolorosi sulle importazioni dell'Unione Europea. We're starting with Europe too. Europe is, to be honest with you, Europe has been very tough to deal with. Stiamo iniziando anche con l'Europa. A dire il vero, l'Europa è stata molto, molto dura da affrontare. Hanno approfittato del nostro paese per molti, molti anni. E ho detto loro che non possono più farlo. Li ho incontrati ieri. Volevo aspettare fino a quando avessi finito con la Cina. Mi piace essere sempre molto trasparente. Non volevo avere a che fare con la Cina e l'Europa allo stesso tempo. Ora con la Cina ho finito e quindi ho incontrato il nuovo capo della Commissione Europea, che è eccezionale. E le ho detto: guarda, se non otteniamo qualcosa dovrò agire. E l'azione sarà una tariffa molto alta per le auto e altre cose che arrivano nel nostro paese. Ora, dicendo questo, non voglio che il tuo pubblico si innervosisca. Faranno un accordo perché devono, loro devono, non hanno scelta. Ma abbiamo avuto un enorme deficit per molti, molti anni, di oltre 150 miliardi di dollari con l'Europa. Francamente, Jean-Claude era un mio amico, ma era impossibile affrontarlo. E penso che ora sarà molto meglio anche con Boris. Prima non è stato possibile fare un accordo. Non ho mai giocato le mie carte prima perché ero impegnato con la Cina. Volevo concludere prima con Cina, Messico e Canada. Ma ora che abbiamo concluso, affronteremo l'Europa. E ho avuto un'ottima conversazione. E sarei molto sorpreso se dovessi implementare i dazi. Allora, l'abbiamo definito l'altro ieri Orazzi e Curiazzi, cioè prende uno per uno. Prima, ecco perché l'Europa dovrebbe parlare con una voce sola, perché se poi lasci la Francia davanti agli Stati Uniti, l'Italia da soli agli Stati Uniti, chiaro che la forza americana è fortissima. Comunque, più chiaro di così non poteva essere Trump, che avrà tanti difetti, ma non gli manca la chiarezza. Prima dovevo chiudere con la Cina e col Messico, adesso mi giro e c'è l'Europa e non va bene lo squilibrio. L'oggetto potrebbero essere automobili, ma non solo, anche prodotti di carattere alimentare. Qui non c'entrava la web tax. La web tax rientra in questa minaccia americana, tant'è che oggi sulla digital tax il ministro dell'economia americano Steven Mnuchin ha detto: se si vorrà imporre una tassa sulle nostre società, considereremo tasse anche sulle case automobilistiche. Gli ha risposto il ministro dell'economia Le Maire, ha detto: guardate che non abbiamo fatto nessuna marcia indietro, perché il Parlamento francese che l'ha votata e resta in vigore. Sono d'accordo con il ministro italiano Gualtieri sulla web tax. Poi si cerca di capire invece se potrebbe essere una decisione dell'Ocse a mettere, a far da paciere su questo. Il tutto arriva nel momento in cui oggi apre la Fiera Agricola di Verona, la più importante appuntamento, 114esima edizione di Fiera Agricola. Lo dico perché il mondo degli agricoltori, dei produttori alimentari è molto preoccupato. Siamo in collegamento con il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, Presidente, intanto vediamo la situazione attuale, perché qui sono varie vicende che non vanno confuse. Quando l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha dato ragione agli Stati Uniti nella vicenda Airbus-Boeing, adesso poi deve dare ragione probabilmente all'Europa sulla stessa vicenda, cioè l'accusa di aiuti di Stato, ha permesso, perché lo prevedono i regolamenti, agli Stati Uniti di applicare dazi non solo sull'industria aerospaziale, quindi Airbus, ma anche su altri prodotti. perché questo lo prevede il regolamento, cioè su prodotti a maggiore importazione. È stato molto colpito il vino francese. Noi però abbiamo beccato intanto i dazi quelli del 18 ottobre 2019 del 25% sul Grana Padano, il Parmigiano, dove sostanzialmente è il secondo mercato estero per il Parmigiano dopo la Francia, e il Pecorino Romano, dove abbiamo i due terzi dell'export. Il rischio, se ho ben capito, non che si estendano questi dazi complessivamente a altri settori: vino e prosecco, pasta, olio d'oliva, mozzarella e prosciutto. Ho capito bene, Giansanti? No, è così. Il sistema che oggi permette al presidente Trump ogni 90 giorni di modificare la lista dei prodotti, innalzando, se ritiene, fino al 100% dei dazi, perché i dazi per ora applicati sono pari al 25%, fino ad una soglia del 100%, oppure modificarli. E quindi riteniamo che ad oggi possa esserci il rischio che a breve il presidente Trump possa allargare la lista dei prodotti italiani soggetti a dazi, e che questo possa colpire ovviamente il mondo del vino e il mondo dell'olio, che, ricordo, sono quasi il 50% del valore esportato negli Stati Uniti sull'agroalimentare, perché tra vino e olio esportiamo quasi 2 miliardi sui 4 miliardi e 3 che si esportano sul mercato americano, e questo sarebbe disastroso per il nostro mercato agricolo. E questo però, come lei ricordava, è permesso anche da questo punto di vista dal regolamento della WTO. Meteo, la pubblicità, vorrei capire invece, perché lei ha preso una posizione oggi molto netta anche sul tema della digital tax, se ho ben capito. Lei dice: attenzione, prima di creare un danno all'intero settore, ad altri settori, blocchiamo, sospendiamo un attimo la cosa e troviamo una soluzione, penso, in sede OCSE, ma lo voglio far dire da lei dopo il metro, la pubblicità. Chiedo scusa per il refuso, la Fiera Agricola di Verona apre il 29, la 114esima edizione, ho detto oggi, ma è stato un refuso mentre stavo leggendo un'altra notizia, quindi non sto dando appuntamento a nessuno alla Fiera Agricola adesso. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Più delle virtù spesso sono i vizi a dirci chi siamo, le ombre prima ancora delle luci. Per raccontarli userò il metodo che conosco meglio, le storie. Linee d'ombra è il nuovo programma di Radio 24 che racconta i 7 vizi capitali attraverso le storie di vita degli ascoltatori. Se volete raccontare una vostra storia di superbia, invidia, ira, accidia, lussuria, gola o avarizia, non perdete tempo, scrivete una o due pagine e inviatela a lineedombra@radio24.it. Io sono Matteo Caccia e le racconterò ogni giorno alle 15 su Radio 24. Focus Economia. minuti. Dunque, presidente Giansanti, lei oggi ha fatto un appello anche al governo a sospendere la digital tax, la tassazione sui colossi del web, che in manovra dovrebbe buttare circa 700 milioni e in attesa di trovare un accordo, se ho ben capito, su scala internazionale, per evitare le ritorsioni americane che dovrebbero colpire o potrebbero colpire anche i prodotti agricoli? Noi questo stiamo chiedendo. È evidente che in assenza di regole di commercio di mercato internazionale, perché da quando ormai il WTO non riesce più a riunirsi, si sta andando verso ormai bilateralità. In questa bilateralità, fino a che non abbiamo un accordo con gli Stati Uniti, prevale la forza con cui il presidente Trump sta proteggendo il proprio mercato domestico con i dazi. Quindi è evidente che se il presidente Trump continuerà ad applicare dazi, e soprattutto lo farà ancora di più perché l'Italia applicherà dazi sulla web tax, è evidente che noi rischiamo di compromettere un mercato fondamentale per l'agroalimentare italiano, che è il mercato americano. E quindi necessariamente oggi non abbiamo molte strade: o negoziamo velocemente un accordo tra Stati Uniti ed Europa, che comunque è lungo e laborioso, pensiamo a quanto tempo si è provato con il TTIP negli anni scorsi o quanto tempo ci stiamo mettendo per approvare il CETA, oppure è evidente che l'Europa dovrà, questa fase, fino a che ovviamente in sede di discussione di WTO non verrà riconosciuto anche il diritto di Airbus e quindi dell'Europa a rifarsi sugli americani, in questa fase ovviamente l'Europa sarà costretta a dover ricorrere, come ha fatto Trump negli anni scorsi, a sostenere il mercato agricolo. Oppure, in terza battuta, e sarebbe il caso più drammatico, ma a questo punto non abbiamo alternative, Dazio chiama Dazio, dobbiamo anche noi a quel punto, certo. Se lui introdurrà i dazi, anche noi non è che possiamo continuare a prendere botte, dovremo prima o poi replicare. Sì, questa è la linea che ha usato oggi anche il ministro dell'economia francese Le Maire, il quale ha detto: attenzione, occorre fare un accordo, per carità, con gli Stati Uniti, altrimenti l'alternativa a un compromesso costruttivo è la guerra commerciale, e una volta che la guerra è dichiarata è molto difficile uscirne. Per cui mi sembra che tutti abbiano interesse in un accordo, bisogna capire cosa chiederanno gli Stati Uniti. Senta, Gian Santi, visto che l'ho in collegamento, i temi che invece verranno affrontati, che saranno oggetto anche della prossima fiera dell'agricoltura, e che riguardano il mondo dell'agricoltura, sono sì soprattutto timore sui dazi statunitensi, perché ricordavo anche i volumi d'affari del nostro settore alimentare, insomma noi esportiamo verso gli USA più o meno 42 miliardi di euro, di cui la parte alimentare vale 4 miliardi e mezzo, e siamo il secondo, diciamo, nel settore italiano manifatturiero, quello alimentare dopo la meccanica, però insomma è importante la quota americana, altri oltre il 10% di quanto viene fatturato. E altri temi che riguardano invece più la parte europea interna all'Europa? Ma oggi noi abbiamo due temi su tutto: primo, Brexit. Certo. Perché dal primo di febbraio avremo Brexit, e dopo tanto averne parlato, ahimè, ne conosceremo i risvolti. Quindi capire effettivamente cosa sarà il mercato inglese a partire dal primo di febbraio, come sarà questo regime transitorio, in attesa ovviamente di trovare poi realmente un accordo generale. E capiremo anche come ci si muoverà all'interno dell'Europa, perché ricordo che quasi tutte le merci europee attraversano il canale della Manica attraverso un porto francese, quindi dovremo capire come i nostri cugini francesi daranno priorità quando si tratterà di imbarcare merci, se daranno priorità ai prodotti francesi piuttosto che agli italiani. Mi lasci aprire un inciso: noi avremo proprio in quel giorno, cioè a cavallo tra l'ultimo giorno di gennaio, appunto, e il primo giorno di febbraio, il nostro Sergio Nava, che partirà proprio da Calais, o meglio, non verrà paracadutato su Calais, arriverà attraverso Parigi e scioperi permettendo a Calais, e da lì poi seguirà proprio un autotrasportatore italiano, quindi vedere cosa succede alle merci, non so se siano merci di carattere agricolo, ma tanto ci interessa appunto capire cosa succederà dal primo giorno tra Calais e Dover. L'ho interrotta però, Gian Santi. Sì, quindi ci sarà proprio da capire innanzitutto a Calais che cosa succede, passa prima il camion francese o passa prima il camion italiano, sì. Perché ovviamente i francesi in questo sono bravi. Altro tema ovviamente importante nel 2020 è il tema della politica agricola comunitaria e ovviamente il budget europeo. Andrà definito quello che sarà il quadro pluriennale di spesa e di conseguenza la politica agricola che governerà il nostro futuro per i prossimi 5 anni. Una partita importante, una partita che per l'Italia vale oltre 4 miliardi di euro l'anno, quindi stiamo parlando di una partita solo per l'Italia di 20 miliardi di euro. E quindi è una partita che dovremo giocare in maniera forte, coesa, all'interno ovviamente di uno scenario europeo in cui sempre più si parla di tematiche della sostenibilità, di questo grande patto verde per l'Europa, e quindi capire anche come coniugare l'attività agricola con questi temi nuovi che riguardano ovviamente la sostenibilità ambientale. Posto che se c'è qualcuno che ha sempre fatto della sostenibilità ambientale una medaglia è proprio il comparto dell'agricoltura. Ecco, chiudiamo su questo, perché c'è il piano di Ursula von der Leyen, ancora tutto da definire nei dettagli, mille miliardi di euro. Però su questo io vorrei capire, perché ho perso di vista proprio lo sviluppo, come sta andando il settore all'interno della sostenibilità ambientale delle biomasse, che vi riguarda molto da vicino. Stiamo vivendo una fase come coloro i quali erano sospesi. Ossia non c'è ancora una definizione del regime di transizione nazionale, non abbiamo ancora capito se si va verso l'elettrico, se si va verso l'utilizzo di fonti da biomassa, quindi con diversa utilizzazione. Noi l'anno scorso abbiamo presentato al governo un accordo per lo sviluppo del biometano, quindi dalle biomasse agricole, la produzione di biogas, da biogas agricolo fino ad arrivare al metano che può essere utilizzato in qualsiasi automezzo. un qualcosa che consentirebbe all'Italia di risparmiare almeno il 10% dell'approvvigionamento nazionale. Quindi, e tra l'altro ci consentirebbe di diminuire in maniera sostanziale le emissioni in atmosfera. Siamo accusati da parte di tutti, come settori zootecnici, di inquinare. Noi abbiamo trovato la soluzione creandone addirittura un vantaggio, però anche qui siamo ancora in attesa dei decreti e quindi non sappiamo se il metano è uno delle fonti energetiche su cui si vuole puntare anche per abbattere le emissioni. Dall'altro ovviamente c'è tutto il tema della transizione energetica e quindi la produzione di energia rinnovabile elettrica, capire come si può continuare a sostenere, perché ci sono comunque disponibilità da parte degli agricoltori di continuare in un percorso che ci ha visto protagonisti anni fa nella realizzazione di impianti per un valore di investimenti superiore ai 5 miliardi di euro, e quindi siamo anche noi curiosi di capire qual è la politica del governo e capire se effettivamente c'è ancora voglia di produrre energie rinnovabili in Italia. Sì, il tema delle biomasse appunto riguarda molto da vicino tutto un insieme di mondi produttori, a partire chiaramente dal mondo zootecnico, ma non solo. Gian Santi, per concludere, è ancora presto, siamo a inizio dell'anno, però avete un consuntivo dell'andamento, in questo caso parlo di tutto il settore agricolo italiano, per quello che riguarda il 2019? Ma il 2019 è stato un anno di luci ed ombre. Luci in alcuni comparti dell'economia nazionale, quindi sono andati molto bene alcuni comparti, però all'interno dello stesso comparto ci sono le luci e le ombre, ossia sono aziende che hanno performato benissimo all'interno del mercato vino e ce ne sono altre che invece hanno avuto difficoltà nella commercializzazione del vino. È stata un'annata molto difficile, un'annata in cui le aziende forti e quelle più strutturate sono andate bene, ma è stato anche l'anno in cui si è discusso e si è parlato troppo, ahimè, quelli che sono i danni del cambiamento climatico, la scarsa quantità di pioggia caduta sui nostri terreni e dall'altra parte aver conosciuto delle specie aliene che stanno distruggendo le coltivazioni italiane, come ad esempio il tema della cimice asiatica. Questo piccolo insetto verde insignificante per tanti di noi che invade le nostre case, purtroppo distrugge le coltivazioni italiane ortofrutticole, e quindi questa stagione lascia in noi ovviamente tutta una serie di problemi aperti sul tavolo, perché oltretutto poi quando ci sono questi problemi le soluzioni attese non arrivano mai e i danni restano. Quindi ci auguriamo che il 2020 possa individuare degli strumenti per poter limitare gli effetti dei danni di questa cimice asiatica, perché se andiamo avanti così, considerate tutta la grande produzione di frutta sull'area adriatica sta sparendo tutto e molti agricoltori ahimè stanno smettendo e stanno tagliando letteralmente in tutta la parte piante, anche emiliano-romagnola, che è molto forte, molto forte nella produzione di ortofrutta. Soprattutto quella, e molti produttori stanno smettendo di fare i produttori, perché voi capite che fare impresa a fatturato zero, difficile, va bene, ma non così. Senta Gian Santi, mi scrivono molti ascoltatori, ma tutto questo timore, piegare la testa nei confronti degli Stati Uniti, si troveranno altri mercati di sbocco? Ora non è così facile, nel senso che noi, ripeto, esportiamo 42 miliardi negli Stati Uniti e di agricoltura facciamo 4 miliardi e mezzo, 1,5 miliardi di vino italiano negli Stati Uniti, olio d'oliva 430 milioni, pasta 300 milioni, tra l'altro tutti col segno positivo nel 2018, più 20%. Cosa risponde a chi dice, vabbè, se dovesse esservi un atteggiamento, insomma, di minaccia con la pistola alla tempia da parte degli America, andremo ad esportare in altri settori, in altri paesi? Amo sempre presentare a questa domanda una risposta con una battuta. Immaginate una grande tavola in cui tutti mangiano. All'improvviso due persone si alzano e dicono: qui mangiamo solamente noi, e gli altri restano a guardare. Mangiare le briciole quando qualcuno è abituato a mangiare il resto, capite che è difficile. Oggi noi con l'accordo Stati Uniti-Cina in questa situazione ci troviamo. Le due maggiori potenze geopolitiche sostanzialmente hanno raggiunto un accordo commerciale e tutti gli altri attori ovviamente devono trovarsi degli spazi di mercato. Diventa difficile perché le quote importanti se ne sono accaparrate americani e cinesi, quindi andare a cercare mercati nuovi o mercati residuali laddove ci vanno tutti è molto molto complesso. Sì, io poi aggiungo una considerazione personale. Io da sempre abbiamo fatto il plauso alle aziende italiane, ai numeri che hanno avuto nell'export, settore agroalimentare, settore del legno arredo, settore la meccanica per l'automotive e abbigliamento e non solo, e anche la capacità che avete avuto anche nel settore alimentare di spostarvi sulla fascia alta, di tutelare insomma il valore aggiunto del prodotto, non entrare in concorrenza con l'Italian sounding sempre. Però forse Gian Santi c'è stato un eccesso di così ci si è basati troppo in questi anni sulle esportazioni, che ti rendono un po' ricattabile, voglio dire, ma parlo non solo dell'Italia, di tutta l'area euro, guardate la Germania, cioè aver sviluppato il mercato interno o aver rafforzato la domanda interna forse sarebbe servito, domanda interna all'Europa, non all'interno all'Italia. Da lì appunto l'avanzo commerciale tedesco da ridurre, spesa pubblica in più da fare nei paesi più virtuosi, come chiede anche la Banca Centrale Europea, forse Gian Santi avrebbero creato meno dipendenza dai paesi extra UE. Ecco. È vero, è drammaticamente vero, è vero che noi abbiamo conosciuto 60 anni fa un'Europa di 6 nazioni, oggi siamo un'Europa di 27 nazioni, 27 nazioni molto diverse l'una dall'altra, e forse quella visione europeista di necessità di politiche europee, ma intese come mercato unico, come mercato unico di crescita, probabilmente sono state abbandonate. Se si tornasse realmente ad una strategia europea, ad un sistema di regole che possano portare la produttività e la competitività europea ad avere gli stessi indici di crescita, tutto sarebbe più facile. Fino ad oggi abbiamo invece conosciuto velocità diverse all'interno dell'Europa, e qualcuno ovviamente, un po' come quel caso, anche all'interno dell'Europa c'è una grande tavola dove uno o due stati mangiano più degli altri, e questo non va bene. Dobbiamo tornare a una stagione di grandi politiche europee condivise da tutti, altrimenti all'interno dell'Europa noi oggi abbiamo nazioni con il costo della vita molto più basso dell'Italia o piuttosto della Francia o della Germania, e quindi abbiamo gli agricoltori che scendono in protesta in Francia, Germania, Olanda, sì. E agricoltori invece con la pancia piena nei paesi dei paesi di area Visegrad, e questo non va bene. Sì, quello squilibrio dentro l'Europa verso i nuovi paesi entrati dell'est Europa. Io sono, a proposito di est Europa, sono d'accordo invece con chi scrive: beh, se però l'America dovesse iniziare una guerra dei dazi sui nostri prodotti, almeno eliminiamo quelli verso la Russia, perché lì ce lo chiese gli Stati Uniti in epoca Obama. Sappiamo che l'Italia è uno dei paesi che paga di più le controsanzioni russe, perché vanno a colpire anche gli alimentari italiani. Allora, insomma, delle due l'una, cioè, non è che puoi stare a fare quello che vuole gli Stati Uniti sulla Russia e poi beccarti i dazi degli Stati Uniti. Ma mi sembra che entriamo in un tema ancora da vedere, poi vediamo, appunto, attenzione, perché i dazi li può applicare l'Europa anche ai colossi del web. Comunque staremo a vedere, spero che non si arrivi a una guerra di dazi e contro dazi. Grazie a Massimo Giansanti, presidente di Confagricoltura. Traffico. Focus Economia. Dunque, andiamo prima del GR24, andiamo sui mercati finanziari: meno 0,60% Milano, meno 0,30% Francoforte, meno 0,60% Parigi, meno 0,50% Londra. Bene, Moncler più 2,60%, Azimut più 2,5%, Amplifon più 2,20%, Atlantia, tutti con la più 2,15%, Nexi più 1,50%, Fineco più 1,40%, Era più 1,30% come Diasorin. Male Saipem per un report di Bank of America negativo, meno 4%, Unicredit meno 3,20%, Bipper meno 2,80% come il banco BPM, 2,40% il caro di UBI, 2,15% quello di Prismia. Stefania Arcudi, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Commento complessivo alla giornata. Tra l'altro è sceso il prezzo del petrolio, questo giustifica anche il calo di alcuni titoli legati al mondo petrolifero. Prego. Sì, la giornata, come dicevi, è stata negativa, ma in realtà i listini erano partiti bene, avevano tentato il rimbalzo rispetto ai cali della vigilia, poi si sono fatti scoraggiare di nuovo dalle preoccupazioni per la diffusione del coronavirus partito dalla Cina, per le dichiarazioni di Trump sui possibili dazi alle auto europee, insomma, e in attesa poi comunque delle decisioni della Banca Centrale Europea domani sui tassi. Insomma, una giornata di incertezza, cautela. Hanno marciato in territorio nettamente negativo soprattutto, come dicevi, i titoli del comparto petrolifero. A Milano Saipem la peggiore con meno 4%, insomma il petrolio era anche lì partito con modesti ribassi, adesso perde quasi il 2,5%. Secondo gli analisti le preoccupazioni per gli gli stop alla produzione in Libia non sono sufficienti a compensare in realtà una offerta comunque ampia. Anche i dati sulle scorte americane in arrivo domani sono attesi in rialzo. Insomma, questo ha penalizzato i prezzi del petrolio e con essi appunto i titoli del comparto. A Milano, appunto, come dicevi, rimbalzo dei titoli del lusso, Moncler in cima più 2,6%, bene anche in particolare Atlantia più 2,1%, potrebbe, secondo gli osservatori, trarre vantaggio dal passo indietro di Di Maio dalla guida del Movimento 5 Stelle. Proprio Di Maio, ricordiamo, ovviamente è stato il principale oppositore pubblico di Atlantia sul tema delle concessioni, quindi una sua uscita potrebbe riaprire o facilitare il dialogo, anche se, come ha detto anche oggi il Presidente del Consiglio Conte, la strada è ancora lunga, è una decisione ancora di là da venire. Allora, migliori e peggiori in assoluto, nel ringraziare Stefania Alcudi di Radio Corriere del Sole 24 Ore, Blue Financial Community più 25, Ambientesis più 11,90, Risanamento più 10,60, Fronte Opposto, Titan Net meno 9,70, Trevi Finanziaria meno 7,80, Mondo TV France meno 7%. Grazie appunto a Stefania Alcudi. Andiamo su GR24 e poi parliamo invece di Orienta Giovani, quindi dell'appuntamento annuale di Confindustria per far conoscere le imprese, il mondo delle imprese ai giovani, i dati che sono emessi e soprattutto il mismatching, cioè quante centinaia di migliaia di posti verranno richiesti, qual è nei prossimi 2 anni e qual è il tasso invece di mancato incontro tra domanda e offerta. Enea, raccontato da Virgilio, era un profugo che fondò Roma. E se è vero che la tradizione è spesso un'innovazione riuscita, un italiano a volte è uno straniero che ce l'ha fatta. Oggi i nuovi italiani sono quelli che vincono Sanremo o quelli che scendono in campo con la maglia azzurra. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 21 con I figli di Enea, storie di nuovi italiani. Naturalmente qui su Radio 24. Imprenditore, non sprecare il 2020 aspettando la tua banca. In soli 3 giorni su credimi.com ottieni fino a 2 milioni senza vincoli e garanzie. Anno nuovo, finanza nuova, solo su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Ultima ora, inventato il telefono per cani. Ma no, basta fake news. Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy e la carne è sempre il primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Sì, siamo qui in diretta dalla manifestazione contro il caro auto, ma un attimo. Eccolo, è lui! State sereni, ci penso io. È Segugio, il supereroe del risparmio. Per risparmiare sulla polizza auto, andate su segugio.it e confrontate le migliori assicurazioni online. Segugio.it, il supereroe del risparmio. Anche la benzina costa troppo. E allora, prova a vincere un buono carburante da 1000 euro al giorno. Sempre su segugio.it. A 500 anni dalla morte di Raffaello, Marco Carminati racconta la storia dei capolavori di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Calamità naturali, furti, guerre, errori di lettura e di interpretazione. Il Sole 24 Ore presenta Raffaello Pugnalato di Marco Carminati. In libreria a €14,90. 2020 è l'alba di una vera rivoluzione tecnologica. Nasce nuovo SUV Peugeot 3008 ibrido plug-in. Elettrico per tutti i giorni, ibrido per spingersi oltre. 300 cavalli, 4x4 e solo 29 grammi di CO2. Unboring the future. A gennaio, nuova gamma SUV Peugeot 3008 da €249 al mese con iMove. TAN 4,99, TAIC 6,26. Salvo approvazione Banca PSA Italia. Info su Peugeot.it. Anche domenica. Peugeot. I miei risparmi. Interessi praticamente zero. Meno i costi, fa più o meno. Meno. I conti meno. Correnti rendono sempre meno. Banca Mediolanum invece ti dà di più. Sono Massimo Doris. Mediolanum oggi ti offre il 2% annuo sulle nuove somme vincolate a 6 mesi. Più un family banker dedicato per ogni tua esigenza. Mediolanum ti dà di più. Da sempre. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Pubblicità per i correntisti tasso lordo sui vincoli in promo fino al 31 marzo. Documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dopo aver toccato i temi di Davos, le minacce contro minacce, di nuovo sui dazi, questa volta appunto oggi perlomeno l'oggetto è stato molto il confronto Stati Uniti-Europa. Come avevo anticipato in apertura del programma, ci occupiamo, torniamo a occuparci, abbiamo fatto ieri, anche la scorsa settimana, anche a inizio anno con il rapporto Radio 24 Scuola.net, torniamo a occuparci di formazione e giovani, quindi lavoro e giovani, perché si è tenuta oggi la 26esima giornata nazionale Orienta Giovani, promossa da Confindustria e LUISS con il sostegno di Umana e la partecipazione di Unindustria Roma. È la manifestazione con cui ogni anno le aziende associate a Confindustria cercano di avvicinare le nuove generazioni all'industria manifatturiera. Noi spieghiamo da sempre, direi, che c'è un problema anche nelle scelte scolastiche che vengono fatte nel mese di gennaio, quando devono essere completate le iscrizioni per le scuole superiori, che spesso non incrociano la domanda di lavoro. Il rapporto Excelsior era molto netto su questo: periti informatici, fresatori, tornitori, periti tecnici, insomma, mancano un insieme di professioni, solo per parlare della parte, diciamo, di scuola superiore. E all'interno di questo problema, nel immaginare appunto che sia sempre meglio la scuola che secondo alcuni dà prestigio sociale, ma poi bisogna vedere se ti permette anche di trovare lavoro, c'è un problema ulteriore quando si parla del mondo manifatturiero, di quella che una volta si chiamava in maniera un po' tranchant industria, così, fabbrica. Lo dico perché, da quello che noi vediamo nell'opinione pubblica, c'è ancora un'immagine, soprattutto laddove le fabbriche e le industrie sono meno presenti, di una fabbrica come una specie di una via di mezzo tra quella di Charlie Chaplin, quindi la catena di montaggio, un luogo oscuro. In realtà le fabbriche, anche grazie alla digitalizzazione di questi anni, all'utilizzo del 4.0, sono dei mondi completamente diversi, ed è giusto che gli studenti e i ragazzi prima le vedano e poi si facciano la loro idea, qualunque essa sia. Dal rapporto di quest'anno è uscito che saranno circa 200.000 i posti di lavoro nel settore manifatturiero, quindi se sommati ai servizi si arriva alla famosa cifra di 430.000 posti. Nel manifatturiero, dicevo, nei prossimi due anni, meccanica, Information and Communication Technology, settore alimentare, tessile, chimica e legno arredo. È emerso però appunto un gap, una distanza tra le esigenze delle aziende e la formazione dei giovani. Solo nel settore della meccanica saranno 67.000 nuovi posti di lavoro nei prossimi due anni. Poi, dicevo appunto, chimica, farmaceutica, fabbricazione di prodotti di gomma e plastica, domanda di lavoro per circa 16.000 addetti, e il settore farmaceutico e le professioni tecniche rappresenteranno dalla metà ai due terzi dei nuovi profili. E poi le imprese dell'Information and Communication Technology, 40.000 richieste stimate nel 2020-2022. Forte domanda, anche perché che prescinde dal ricambio per chi andrà in pensione. E questo vale anche nel settore alimentare, dove gli ingressi complessivi si stimano entro il 2022 che saranno 45.000, con una forte domanda di giovani sotto i 29 anni. Chiudo col settore tessile e legno arredo, 25.000 richieste di lavoro. Con difficoltà nel settore scusate la mia voce oggi, nel settore tessile, che arrivano all'80% nel reperire le figure richieste. Per esempio, i modellisti sono quasi introvabili in questo paese. Legno arredo, 12.000 nuovi ingressi, forte domanda di designer e operai specializzati. Allora, siamo in collegamento con chi ha curato per Confindustria la 26esima giornata nazionale di Orienta Giovani, Giovanni Brugnoli, che è vicepresidente di Confindustria per il capitale umano. Buonasera, Brugnoli. Buonasera a lei e ai vostri ascoltatori. Abbiamo realizzato con la nostra Piera Ceci un approfondimento, tanto le cifre che ho ricordato, perché poi sono state anche premiate le aziende, le imprese eccellenti nel settore dell'alternanza, e quindi l'alternanza scuola-lavoro, che è una cosa buona e giusta, ed è stato sbagliato levarla e poi ridurla da parte del governo giallo-verde, e la collaborazione con gli ITS. Anche qui Radio 24 ha fatto un viaggio molto lungo negli ITS di eccellenza, che garantiscono tassi di occupazione tra il 90% e il 90%. Premiate quindi la Comac di Bergamo come migliore azienda nell'alternanza scuola-lavoro e la migliore azienda nella graduatoria bollino di imprese in ITS è la Accor Hotel Italia. Classifica complessiva primeggia umana, azienda di job placement. Sentiamo appunto l'intero approfondimento della nostra Maria Piera Cecci. Mondo della scuola e mondo del lavoro che fanno ancora fatica a parlarsi e a collaborare. Non mancano però gli esempi virtuosi. La 26esima edizione di Orienta Giovani è stata infatti anche l'occasione per premiare aziende e associazioni industriali che si siano distinte in progetti di qualità nel campo della formazione. Il premio BAC, Alternanza di Qualità, è andato all'Associazione Industriale Bresciana. Laura Galliera, responsabile Education e Capitale Umano dell'Associazione Industriale Bresciana. Noi abbiamo 46 aziende che quest'anno hanno ottenuto il bollino di qualità. Principalmente nel territorio bresciano abbiamo una forte numero di aziende metalmeccaniche, ma abbiamo anche aziende del settore tessile, chimico, turistico, alberghiero, ristorazione, quindi non solo l'istituto tecnico, ma i licei, gli istituti chimico-professionali, l'alberghiero, perché l'alternanza veramente è una grandissima leva per le aziende e anche per le scuole. Un'alternanza che però è stata dimezzata dal Conte 1. Ecco, che cosa chiedete al governo a livello di alternanza scuola-lavoro? Che le ore di alternanza scuola-lavoro che erano state previste con la precedente normativa siano ripristinate. Questo taglio delle ore ha comportato grosse riduzioni di collaborazione, di attività finalizzate all'inserimento poi dei ragazzi nel mondo del lavoro. Ancora un premio per l'alternanza di qualità è andato alla Comac, una società bergamasca che opera nel settore degli impianti automatizzati di imbottigliamento e infustamento. Giuliana Rossini, responsabile risorse umane della Comac. Da una parte, a livello di responsabilità sociale è importante contribuire per l'orientamento dei ragazzi in modo tale che vedano calate le nozioni e le cose che imparano a scuola in un contesto che è concreto. Dall'altra parte, perché abbiamo bisogno di tecnici e quindi iniziamo ad osservarli in erba con la speranza che un domani crescano appunto come dei bravi tecnici e magari ci mandino il curriculum per lavorare da noi. Aziende dunque che si mettono a disposizione delle scuole per l'alternanza, quella che ora in realtà si chiama percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, quella che non solo ha cambiato nome ma è anche stata dimezzata nei finanziamenti e nelle ore dal governo Conte 1 e non è ancora chiaro che destino avrà con il Conte 2 e con la nuova ministra Azzolina. Ma restiamo in Lombardia per il terzo premio assegnato a Orienta Giovani, il premio BTS, andato ad Accor Hotels Italia per la sua collaborazione con gli ITS nel settore turistico, in particolare con l'ITS Yacht International Academy of Tourism and Hospitality che si trova sul lago di Como. Ad Alessandro Arborio Mella di Accor Hotels abbiamo chiesto perché non decollano gli ITS, gli istituti tecnici superiori, e come fare per farli conoscere agli studenti e alle famiglie, perché questo resta il principale problema degli ITS. Il nome ITS sicuramente non aiuta dal punto di vista proprio del marketing nei confronti, diciamo, dei giovani, soprattutto nei momenti di orientamento che le scuole devono fare nei mesi precedenti a quelle che sono le uscite dai canali della scuola superiore, eccetera. Quindi molto probabilmente le scuole stesse ancora oggi lavorano molto sul tema di un'uscita verso il mondo dell'università o delle professioni e non viene veramente presentata questa altra opportunità che, tra l'altro, ben sappiamo ha un placement che davvero si avvicina al 90% nei sei mesi successivi al conferimento del diploma. Quindi è sicuramente anche dal punto di vista del placement delle famiglie, dei ragazzi, un'opportunità che dovrebbe essere sicuramente molto attrattiva. Due, quelli che sono i finanziamenti che vengono dati all'ITS arrivano sempre, diciamo, in periodi dell'anno molto sotto a quella che è la sottodata rispetto a quella che è la partenza di ITS stessi, quindi probabilmente c'è molto difficile, sarebbe molto interessante per noi poter davvero fare una programmazione con i partner delle fondazioni, con magari una visione anche a 2, 3, 4 anni e cominciare davvero a costruire delle professionalità e dei progetti soprattutto formativi a lungo periodo e non soltanto legati a quello che è il finanziamento che ci arriva nella regione in periodi in tempi così ristretti. Quindi sicuramente un fatto di attrattività, di promozione degli stessi e probabilmente anche di di nome. Lasciamo finalmente la Lombardia, ci trasferiamo in Puglia, premio BTS anche per Confindustria Bari Bat, che collabora con 5 ITS pugliesi, ma che vorrebbe allargare la collaborazione anche con gli altri gradi di scuola, come ci racconta Cesare De Palma, presidente della sezione meccanica dell'associazione. Non vogliamo moltiplicare l'ITS, perché l'ITS, se no, alla fine si inflazionano. Vogliamo che l'ITS diventino una scuola di altissima specializzazione, che faccia colletti blu, che faccia persone fortemente specializzate, che in Italia si erano perse, che prima formavano gli istituti professionali. Gli istituti professionali poi sono morti a un certo punto per politiche sbagliate. Adesso vorremmo che il modello ITS, cioè il modello di dialogo sulla fase di formazione dei piani formativi tra imprese e docenti, professori che sono nei comitati tecnici scientifici, venga replicato in tutti gli altri ordini di scuole. Dunque, se dovessi dirla con una battuta, Brugnoli, direi, insomma, se volete che vostro figlio trovi sicuramente lavoro e magari non vuole andare all'università, l'ITS è la strada maestra. Lo dico perché abbiamo fatto appunto con Maria Piera Ceci un anno fa un viaggio in tutti gli ITS di qualità, dei migliori in questo paese, e appunto il tasso di occupazione, di placement, come dicono quelli che hanno studiato, è intorno al 90%. Brugnoli, un primo commento, poi andiamo sul traffico e sento un commento più complessivo. Allora, qualcosa si è mosso, nel senso che l'errore del governo giallo-verde di levare l'alternanza scuola-lavoro per un'idea proprio ideologica, venivano sfruttati i ragazzi a fare le fotocopie, a parte che quando sei un ragazzo entri puoi anche fare le fotocopie, non c'è niente di male, ma soprattutto inizi a vedere cos'è il mondo del lavoro al di là degli stereotipi, di quello che ti viene raccontato. Qualcosa si sta muovendo, ancora forse molto lentamente rispetto a quello che voi chiamate mismatching, cioè mancato incontro, domanda di professionalità e di figure professionali rispetto all'offerta. Il tema è che ci sono tanti punti da toccare. L'alternanza non è possibile dimezzarla al 50% per ogni grado di istituto, quindi licei e istituti tecnici. Questo è il primo momento di contaminazione da parte dei ragazzi nei confronti delle imprese, dove vedono cambiamento, innovazione, tecnologia, l'industria che cambia, e soprattutto iniziare a mettersi a disposizione in team building insieme a dei futuri collaboratori. Il tema ITS. TMTS è un canale professionalizzante post-diploma che ha la pari dignità rispetto al canale universitario, e ripeto, noi abbiamo un numero di universitari minori nei confronti dell'Europa e dei nostri competitor, però molto spesso famiglie, ragazzi e docenti non sono preparati sul tema ITS, non sanno cosa sono, non sanno che tipologia di scuola si tratti, non sanno che tipo di formazione facciano, e soprattutto non sanno che hanno un link strategico con le imprese, perché le imprese fanno parte del percorso formativo. Il 40% dei docenti sono manager o imprenditori, e il 50% delle ore, diciamo, di insegnamento si fanno nelle imprese. Quindi è un canale molto pragmatico, vicino all'impresa, coordinato anche dalle imprese all'interno delle fondazioni, e soprattutto da un grado di occupabilità molto importante. I dati che citavate voi sono corretti, la media è dell'82% con delle punte intorno al 95%. Sull'occupabilità. Brugnoli, resti con noi, ho il traffico e poi ve la faccio concludere anche sul tema però degli incentivi salariali che possono arrivare a queste nuove professioni, fermo restando che c'è sempre un salario d'ingresso che è tendenzialmente basso, il problema poi è la valorizzazione lungo il percorso professionale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta, Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria per il capitale umano. Due cose rapidissime. La prima, visto l'impatto positivo che aveva avuto l'alternanza scuola-lavoro e quello che lei ricordava sugli ITS, che cosa chiedete al governo? La seconda, molti ascoltatori mi scrivono, sì, va bene, però il tasso di occupabilità sarà anche alto, vale anche per altri istituti tecnici, penso a nautici e di quant'altro, però i salari sono molto bassi. Per quanto riguarda la prima, noi chiediamo una programmazione ampia. Noi abbiamo fatto gli stati generali l'anno scorso a Torino e abbiamo visto che i nostri competitor, Germania, Cina, Stati Uniti, hanno un programma sulla formazione ventennale. Noi in 4 anni abbiamo cambiato 6 ministri dell'istruzione, quindi è un pochettino difficile. Quindi dare un ampio respiro almeno quinquennale. Facendo così si ha una programmazione di corsi, di risorse, certo, e soprattutto di marketing per quanto riguarda le scuole. Il secondo, per quanto riguarda gli ITS, il salario d'ingresso di una persona che esce dagli ITS è mediamente più alto come primo salario rispetto a un diplomato o addirittura anche a un laureato, perché sono figure introvabili. Ed è un paradosso che noi abbiamo una disoccupazione giovanile con il 30% e abbiamo nei prossimi 3 anni questo mismatching di 205.000 ragazzi, di cui sappiamo che gli under 29, 1 su 2 sarà praticamente impossibile. Ma è una cosa che mi fa incavolare. Ma scusi, ma i Navigator stanno facendo, quindi Reddito di Cittadinanza vi sta dando una mano su questo, da quello che le vede? Secondo noi il tema è che l'orientamento è capire le esigenze della manifattura e indirizzare l'orientamento scolastico alle tipologie di industria che richiedono il personale. Noi abbiamo fatto un grande esercizio e un grande sforzo perché abbiamo quantificato le esigenze nei prossimi 3 anni e l'abbiamo aggiornato, perché l'anno scorso erano 193.000, quest'anno sono diventati 205, e mi faccia fare una chiosa: con una crescita del PIL che ha sempre lo 0, davanti, perché vuol dire che, certo, se avessimo una congiuntura economica un pochettino più robusta, un pochettino più rotonda, oggettivamente saremmo in grande crisi, perché il capitale umano è diventato ormai un fattore importante. Cioè, paradossalmente, scusi Brugnoli, quello che lei ci sta dicendo è che se l'economia dovesse ripartire, come tutti ci auguriamo, in maniera un po' più sostenuta, andremo ancora più in difficoltà, nel senso che noi abbiamo la Germania che ha dei rapporti di ragazzi formati in ITS che sono 10 volte superiori ai nostri, in alcuni casi anche su alcune professioni 100 volte superiori. Però lei ci sta dicendo attenzione, perché questo, io sono molto d'accordo sui piani quinquennali, non perché sia un amante dei piani quinquennali, è che un tema come l'istruzione devi dare certezza di risorse, di ore di alternanza scuola-lavoro, risorse per gli ITS, in modo che tutti possano pianificare anche un'attività di marketing delle scuole che è giusta, cioè di dire venite da noi, iniziare a fare delle campagne, no? Soprattutto è corretto il fatto che una scuola sa che per i prossimi 5 anni ha stanziamenti certi e un orizzonte temporale definito. È evidente che avrà una moral suasion, un servizio placement che lavorerà per attrarre a sé degli studenti, un maggior numero di studenti, diplomati, eccetera, che diventeranno occupabili immediatamente. E addirittura ci potrebbe essere un bonus: più ne occupi dopo il diploma e più io ti do un, certo, premio, quantificato, perché facendo così si innalza il livello della reputazione dell'istituto. In più, non è che gli istituti tecnici siano le istruzioni di serie B nei confronti dei licei. C'era una vecchia riforma che andava dalla Democrazia Cristiana alla riforma Moratti, che diceva mettiamoli tutti a livello liceale, poi ci sarà il liceo scientifico, il liceo classico, il liceo tecnico, all'interno del liceo tecnico tutte le specificità rispetto alle materie. Così eleviamo anche il problema sociologico, culturale di alcuni genitori, lo sapete che la battuta la faccio sempre, ma mio figlio voglio che vada al liceo, poi non ti interessa sapere. È chiaro che sono una passione per le, non so, per le lettere, la lettere classiche, la storia, il latino, ma che vada al liceo, se per la matematica che vada al liceo scientifico, però se ci va al liceo solo perché tu possa dire mio figlio è al liceo e invece aveva passione e inclinazione per altro, stai facendo un danno non tanto a te, a tuo figlio, lo dico per poi poter dire magari al bar, alla parrucchiera, però mio figlio fa il liceo. Comunque, grazie anche a Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria, per il capitale umano. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata.